versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio, siamo in diretta qui alle 16.31, primi 40 secondi dagli studi di Milano della radio, grazie per l'ascolto, ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it per segnalare temi o voi stessi in trasmissione. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo del fatto che stamattina i sindacati di tutte e tre le maggiori confederazioni del pubblico impiego hanno annunciato che sono pronti anche allo sciopero generale. Hanno lanciato una mobilitazione pervasiva nazionale, però dicono subito al governo: guarda che con quello che hai stanziato in legge di stabilità per il rinnovo dei contratti pubblici, ricordo a tutti che la Corte Costituzionale ha stabilito alcuni mesi fa che il blocco del rinnovo dei contratti pubblici, siamo al quinto anno, doveva cessare e quindi bisognava procedere al rinnovo dei contratti pubblici. È stata una delle modalità con cui in questi anni abbiamo contenuto in termini reali, è l'unica grande voce della spesa pubblica che in realtà è diminuita per l'effetto del blocco dei contratti, quindi degli aumenti contrattuali, ed è diminuita per effetto del turnover, e quindi abbiamo anche negli anni perso circa 300.000 occupati sul totale del pubblico impiego. Siamo passati da 3.280.000 a 2.900.000 e rotti, meno di 3 milioni. Però a seguito di questo il sindacato dice: caro governo, hai messo 300 milioni in totale per il rinnovo dei contratti di 3 milioni di dipendenti, e con questa cifra non si può sederci al tavolo. E quindi o il Parlamento, la maggioranza, le opposizioni, vedete voi, il governo cambia idea e mette una cifra di ordine di grandezza completamente diversa, oppure si va allo scontro frontale. Quindi è ovvio che se voi siete un dipendente statale, tanto delle amministrazioni centrali quanto periferiche degli enti locali e così via, chiamate e diteci come la pensate all'800240024, ma questo riguarda poi anche tutti i cittadini. Se pensate che la posizione dei sindacati che rappresentano i dipendenti pubblici sia giusta oppure no in questa loro richiesta. Ulteriore premessa prima di presentarvi l'ospite, per farci spiegare meglio le basi di questa posizione e in che cosa potrebbe poi evolvere. Da quello che abbiamo capito noi dell'informazione in queste 10 giorni convulse prima che apparisse poi il testo della legge di stabilità, avevamo capito che la cifra infatti era complessivamente di 300 milioni, ma per così dire il governo ci ha informalmente spiegato che l'ammontare così esiguo, perché i sindacati si aspettavano diversi miliardi, a dire la verità, vedremo quanti, ma insomma si partiva da una base di 2 miliardi e così via, la spiegazione del governo informale, mai messa nero su bianco, è stata più o meno questa: ma non vi stupite che l'ammontare sia così contenuto, perché i sindacati per primo del pubblico impiego sanno quanto segue, poiché prima di iniziare a sedersi al tavolo, questa è la posizione che ci è stata spiegata, bisogna procedere alla riunificazione, anzi all'accorpamento dei 12 comparti dei dipendenti della pubblica amministrazione, centrale e periferiche. Fino ad oggi c'erano 12 diversi comparti, in 4 soli comparti, come stabilito dalla riforma della PA Brunetta nel 2008 e da allora mai attuato. Prima bisogna procedere a questo accorpamento, e non sarà cosa facile, per così dire. E poi a quel punto vedrete che per la contrattazione troveremo altri soldi. Questo è quello che ci è stato informalmente spiegato, però, che ufficialmente non è scritto da nessuna parte. I 4 comparti nei quali andrebbero riunificati il totale dei 3 milioni di dipendenti sono questi, cioè sono individuati il primo come la somma di tutti i dipendenti statali, comprese le agenzie, le autorità, eccetera, tranne secondo comparto, quello della scuola e dell'università. Il terzo comparto sarebbe quello dei comuni, poi ex province e delle camere di commercio, mentre Il quarto comparto nasce dalla somma dei dipendenti delle regioni e di tutti i dipendenti della sanità. Ora, questo accorpamento non è che è semplice, sulla carta si fa, perché stiamo parlando di dinamiche e retribuzioni medie che sono molto diverse tra i comparti che devono, per così dire, unificarsi. Quindi significa trovare poi dei criteri comuni, dai dirigenti fino alle qualifiche più basse dei dipendenti, per il salario di merito, eccetera, eccetera. Quindi non proprio una cosa che si fa in pochi giorni. È anche una cosa sulla quale i sindacati hanno delle opinioni forti, non proprio favorevolissime, per così dire. E quindi il governo ci ha fatto capire. Ecco perché c'è un CIP, perché noi siamo rispettosi della sentenza della Corte, e poi le cifre, vedrete, quando sarà il tempo giusto, saranno quelle adeguate. Lo dico solo per informazione, anche se ho l'obbligo di dire che non c'è nessuna presa di posizione né spiegazione ufficiale a questo proposito. Allora, abbiamo con noi la segretaria generale della Funzione Pubblica della CGIL, Rossana Dettori. Grazie e buon pomeriggio di essere con noi. Buon pomeriggio anche a voi. Le chiedo, prima ancora di entrare nel merito della posizione che avete espresso oggi, questo caveat che è stato spiegato all'informazione a giustificazione dei soli 300 milioni, ha un riscontro da parte vostra, risulta anche voi oppure no? No, io intanto la ringrazio perché l'informazione ci dà sempre notizie che il governo non ci dà. Ecco. È utile ascoltarvi. Allora, c'è la proposta che nasce ovviamente da Brunetta, la famosa legge 150, sì, che stabiliva la riduzione dei numeri dei contratti di tutti i settori pubblici da 12 a 4. Sì. Non definiva, e quindi diceva massimo 4. Noi non ci siamo detti disponibili a discutere quando il governo ci ha posto questo tema. Perché i precedenti governi non ve lo avevano posto in realtà? No, Brunetta l'aveva posto, ma noi ci opponemmo alla, sì, alla 150. No, ma dico, da Brunetta fino a questo governo, i governi successivi, Monti, no, perché c'è stato sempre un blocco dei contratti, esatto, e nessuno ha mai voluto discutere, si comincia dal blocco dei contratti. Questo governo pone, non nei termini che la stava raccontando lei, non a noi perlomeno, dice è prioritario ovviamente affrontare il tema di come costruiamo i quattro comparti di contrattazione e in contemporanea in maniera che poi si avviano i tavoli di settore. Sì. Abbiamo avuto una riunione il 13 ottobre all'ARA, che è ovviamente il soggetto che per il governo tratta con i sindacati. Noi ci siamo detti disponibili, abbiamo anche avanzato una nostra proposta, che era unitaria dei sindacati maggiormente rappresentativi, che accettava l'ipotesi di riduzione a 4 dei comparti, poi diversa la composizione, nel senso che abbiamo detto va bene mettere insieme tutte le funzioni centrali, gli statali, i ministeri, come ha detto lei prima, con le funzioni centrali, sì, con camere di con IPS, perché ci va anche lì, sì, certo, Agenzia delle Entrate, INAI, esatto, abbiamo detto anche i lavoratori di Palazzo Chigi, non vorremmo che fossero dimenticati o ritenessero altro dei lavoratori pubblici. Va bene il contratto unico della conoscenza che tiene insieme scuola, ricerca, università e AFAM, che sai, è complicato, questi sono i due contratti più complicati, certo, da costruire. Noi abbiamo chiesto invece che enti locali avessero un suo contratto che tiene enti locali, ex province e regioni, e il contratto della sanità come contratto della sanità. Perché noi valutiamo complicato in questa fase di riassetto istituzionale e anche con la discussione che si sta avviando oggi sulle regioni, decidere che c'è tutta la legge sulle province che deve essere portata a casa, ci pareva davvero complicato di spacchettare i due contratti. Quindi l'importante era essere a quattro, la nostra proposta era appunto di questi quattro contratti. E questa è una proposta comune, ci ha detto, che voi avete avanzato, sì, a ottobre quando, sì, avete incontrato. E il governo che cosa vi ha risposto? Non lo sappiamo. Ah, ecco. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, nessuna convocazione da parte dell'ARA, perché noi la proposta l'abbiamo avanzata, non abbiamo assolutamente chiuso, devo dire, nessuna delle organizzazioni sindacali ha chiuso completamente la porta, le posizioni erano diverse, però non c'è stata una chiusura alla discussione. E noi, cioè, siamo andati con questa proposta. Ad oggi, siamo al 27 di ottobre, non abbiamo assolutamente idea che l'ARAN si è incontrata col governo, se il governo era comandato all'ARAN per riconvocarci, e quindi la lentezza a me qualche sospetto monofavorire, non vorrei che si usasse per poi ritardare il rinnovo dei contratti. Questo, a dirle la verità, caro Sano Dettori, è quello che più o meno abbiamo capito traducendo quello che ci dicevano a voce, insomma, dal MEF, che insomma c'è un tempo fisiologico per fare queste cose qua, anche perché poi nel frattempo alcuni colleghi dei diversi giornali che sono andati a interpellare i rappresentanti sindacali dei diversi comparti hanno, diversi giornali hanno dovuto scrivere, per esempio, che i dipendenti di Palazzo Chigi fanno le barricate, che lei ha giustamente ricordato, fanno le barricate di fronte all'unificazione, perché pensate, cari radioascoltatori, che la differenza media retributiva lorda tra un dipendente medio di Palazzo Chigi, queste cito cifre della Ragioneria Generale, quindi non me le invento, e il ministeriale medio già non è nel accorpando tutti i dipendenti centrali e quello che guadagna meno, ma la differenza è tra i dipendenti medi, Palazzo Chigi e ministeriale, di 16.000 euro lordi, quindi a Palazzo Chigi dicono non ci pensiamo nemmeno noi a fare un contratto uguale. Allora, quanto tempo ci vorrebbe secondo voi qualora il governo vedesse una risposta e quindi entraste poi nel merito di come accorparle queste quattro aree? Per fare i contratti, cioè per sedervi ai contratti, quanto tempo ci serve? Perché a noi ci hanno spiegato che è una cosa molto lunga dal punto di vista amministrativo. Noi abbiamo sperato che fosse vero quello che c'era stato detto dal governo e anche dal ministero, che in 60 giorni volevano chiudere, che si chiama CCN, contratto nazionale quadro, che è quello che ridefinisce i comparti. Quindi una volta ridefiniti i comparti, che a quel punto si tratta di mettere insieme i settori, certo, e poi affrontare il tema di come nel contratto fai le sezioni, perché non è che puoi pensare che all'improvviso cambi tutto e subito, nel senso che poi appunto gli inquadramenti, le competenze. No, perché poi bisogna prevedere ovviamente un ciclo di tempo nel quale si converge. Perfetto. Non è che si può fare dalla sera alla mattina, come ovvio. Ma infatti nella proposta che ci ha fatto anche l'Aran è quello di fare il contratto e poi dentro al contratto delle funzioni centrali, ad esempio, le sezioni che provano a tenere ancora più le specificità dei vecchi contratti nazionali. Se il governo ci chiama, io penso che tutto questo nell'arco di un mese si può risolvere. Ah, quindi insomma all'inizio dell'anno si sarebbe pronti a quel punto a sedersi ai tavoli contrattuali. A quel punto avesse tavoli contrattuali, quindi se il governo vuole, no. Poi ovviamente a quel punto nasce l'altro problema. Già. Che quanto, perché adesso il governo può dire che ha messo un chip per dire che risponde alla Corte Costituzionale, a noi ci ha preso in giro, la dico così, c'è un'elemosina nei confronti dei lavoratori pubblici che hanno un contratto bloccato ormai dal 2010, già, e quindi con una perdita di potere d'acquisto notevole, perché poi adesso siamo a inflazione più o meno para, ma in altri anni l'inflazione non è stata come quella di adesso, perché i lavoratori pubblici hanno perso salario e in più con le norme, oltre a quello del contratto nazionale, hanno bloccato la contrattazione integrativa e i fondi contrattuali che servono per fare la contrattazione integrativa, che è quella che paga la produttività, ma che è quella che paga anche i turni dei medici o degli infermieri che fanno i turni mattina, pomeriggio, notte in ospedale, degli insegnanti delle scuole materne di Genzo e Milo che fanno mattina e pomeriggio. Certo, perché poi ci sono tante voci che compongono, che non è ovviamente quello salario variabile, che puoi fare una contrattazione di secondo livello. È stata bloccata anche quella, quindi noi abbiamo fatto una media, lavoratori pubblici quest'anno hanno perso mediamente 3.000 euro, quindi insomma non è in questi 5 anni poco. Certo, 12 euro di aumento lordo ci sembra veramente ridicolo, inaccettabile. L'abbiamo ora detto subito. Per capirci, l'ordine di grandezza, non so se anche su questo abbiate una base comune sull'ordine di grandezza, ma l'ordine di grandezza che lei, in quanto segretario generale della funzione pubblica della CGIL, riterrebbe a lume di naso, appunto, come ordine di grandezza, il minimo potabile per sedersi? Guardi, noi abbiamo oggi, per l'appunto stamattina, ha fatto un comunicato stampa, abbiamo predisposto le rivendicazioni economiche e normative, e abbiamo chiesto per il rinnovo del contratto nazionale, per il rinnovo del contratto di secondo livello, quindi per il riconoscimento delle professionalità, delle performance e anche per il turnover, su cui poi se abbiamo un attimo, perché anche questo è un tema che lì è prima trattato, la finita di occupazione nei settori pubblici, abbiamo chiesto un aumento di 150 euro. Quindi l'abbiamo già avanzata la proposta, anche questa è un'Italia, c'è un'Italia. Quindi stiamo parlando di un ordine di grandezza di 10 volte rispetto a quello che per far capire a chi è a casa, insomma, non 300 milioni. È evidente che, come accade sempre, questa è la proposta sindacato, quella di contrattazione come assoluto. Però è solo per far capire a chi ci ascolta che non stiamo parlando di differenze di 100 milioni di euro in più, stiamo parlando di una proprio di un ordine di grandezza diverso, e questo rispetto ai conti che sono molto strippati, se mi consente il termine un po' slang, di questa legge di stabilità, vedere come fa il governo a tirarli fuori. Però c'è da dire, però posso aggiungere una cosa? Sì, certo, come ha tirato fuori 300 milioni il governo? No, perché sì, ha ragione. Ci autofinanziamo. Ha ragione. Questo per il rinnovo, questo tip che il governo ha messo per il rinnovo contrattuali è frutto di risparmi su salario accessorio dei lavoratori, del blocco del turnover totale per la dirigenza e soltanto per il 25% è autofinanziato. Io volevo aggiungere anche che nella legge di stabilità sta scritto che questi 300 milioni sono in realtà per il rinnovo della quota parte dei dipendenti pubblici centrali, perché per quelli delle regioni, quelli comuni, province e quindi Camera di Commercio se sono annessi a quelle delle dei comuni, e sanità se fossero annessi alle regioni, invece le cifre per il rinnovo vanno trovate e reperite nei rispettivi bilanci di competenza, non in quelle dello Stato. Quindi capite che siamo e tant'è che questa è una anche dei motivi per cui Chiamparino, il coordinatore delle regioni, si è dimesso dicendo: ma ci dobbiamo mettere, oltre al tendenziale diminuito dell'aumento del fondo sanitario, al fatto che ce l'ho bloccate con i LEA, al fatto che aumentate a 1,8 miliardi l'anticipo del pareggio di bilancio l'anno prossimo, ci dobbiamo pure immaginare dal nostro bilancio di trovare fuori le risorse per il rinnovo dei contratti. Anche questo vi risulta oppure no? E questo ci risulta, nel senso che è drammatico, perché tutte le volte che noi abbiamo fatto il rinnovo del contratto, nel finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e nelle risorse che andavano verso enti locali e regioni, era previsto il rinnovo contrattuale. Ma qui è vero che invece non era previsto e bisogna infilarci. Ma c'è pure il rischio che ci chiedono di dare indietro i soldi se non vogliamo fare il Servizio Sanitario Nazionale, che già è a rischio, come sappiamo tutti, 10 milioni di italiani non riescono nemmeno ad accedere se non sono in grado. Allora, io spero che siamo riusciti a spiegare a tutti in maniera non tecnica di che cosa si tratta e perché il sindacato del pubblico impiego dice al governo: guarda, non ci siamo proprio. Ecco. Adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, vedo delle telefonate e poi le facciamo commentare a Rossana Dettori del settore della funzione pubblica del CGL, della segretaria generale, vediamo come la pensate voi e i suoi commenti. A tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:50 primi 41 secondi, 300 milioni solo appostati dal governo in legge di stabilità per il rinnovo dei contratti pubblici, bloccati dal 2010. I sindacati CGL, CISL e UIL del settore pubblico stamattina dicono: non ci siamo proprio, siamo mobilitazione subito, ma fino allo sciopero generale, perché l'ordine di grandezza, lo avete sentito, per i rinnovi contrattuali, previo anche l'accorpamento in quattro solo settori dei 12 precedenti della pubblica amministrazione, ma l'ordine di grandezza deve essere fino a 10 volte superiore. Allora, sentiamo rapidamente qualche telefonata, mentre resta con noi Rossana Dettori, che è la segretaria generale della funzione pubblica della CGL. Cominciamo con Marco da Monza. Prego Marco. Sì, buonasera Giannino, complimenti per tutto quello che stai dicendo. Dica. Io ho 40 anni che sono dipendente pubblico, non siamo mai stati così tanto ammazzati in tutti i campi, in tutte le maniere. Io faccio un lavoro che prevede una specializzazione molto alta, sono un ispettore fitosanitario, devo fare i controlli alla dogana, l'ingresso, l'esportazione e tutto, e ho lo stipendio bloccato da un sacco di tempo. Sì. Con gli straordinari e con la reperibilità sabato e domenica e con indennità di ufficiali di polizia giudiziaria arrivo a malapena 1700 euro politi al mese. Dica lei se un mio pari grado in Svizzera prende 7000 franchi, un pari grado Irlanda ne piglia 6.000 euro, mi dica lei come possiamo andare avanti così. E quindi Marco dice, sindacati tenete duro, se non l'ha detto, ma immagino che sia questa la posizione, Marco, no? Dico, immagino la sua posizione sia sindacati tenete duro, è questo. Tenete duro, ma duro certo. Veramente, non le braghe come hanno fatto fino a una volta. Chiarissimo. Va bene Marco. Allora, sentiamo Ivan da Milano. Ivan. Sì, buonasera Giannino. Buonasera. Guarda, la situazione, la mia personale, è pure più drammatica di quella che già avete delineato, perché io lavoro nella sanità privata. E la sanità privata ha un contratto che è sempre andato un po' a rimorchio della sanità pubblica. Sì. L'ultimo aumento contrattuale che abbiamo avuto noi risale al 2008, è stato un acconto, così è passato come acconto, su un futuro rinnovo del contratto che in realtà è dal 2005 che è scaduto. Sono passati 10 anni, abbiamo avuto pure il blocco degli straordinari. Noi personalmente come gruppo ospedaliero lombardo 2 anni di contratto di solidarietà, che è una specie di cassa integrazione specifica per la sanità privata. Quindi posso dire, Ivan, in realtà sia pur dipendente privato, ma in condizioni peggiori, voi vi augurate che del pubblico si sblocchi, perché sennò non si sblocca neanche il vostro. Ma tra l'altro, a parità di mansioni, la sanità privata guadagna meno della sanità. Sì, appunto, a maggior ragione. Allora. Tra l'altro, allora, conti che io a 52 anni prendo 1.250 euro nel stipendio, e comunque non sono... Se faccio paragone con figure uguali, ma in altre chiarissimo. Sentiamo di nuovo Rossana Dettori, che cosa pensa di queste telefonate. Beh, ovviamente queste telefonate erano tutte favorevoli, ce ne sono anche altre che non lo sono per niente, però la cosa che mi interessa capire è il vostro livello di interlocuzione richiesto, Rossana, e al governo a che livello, o con l'Aran sempre? Noi abbiamo, ovviamente, rispetto alla legge di stabilità, non è una richiesta al governo, perché oggi al Parlamento, speriamo, certo, quando arrivano a discutere la legge di stabilità, riescano a modificare le cifre stanziate, ma anche le modalità, perché lei non l'ha detto, ma c'è una cosa che prevede che se non c'è un'intesa con noi, il governo dà i soldi da solo. Quindi siamo proprio all'idea del centralismo democratico autoritario da questo punto di vista. Però mi interessava. E poi c'è un'interlocuzione ovviamente con il Ministero e con l'ARA, sì, che questi sono i soggetti. Certo, deputati, certo. Deputati, mi interessava la telefonata del lavoratore della sanità privata, perché non solo ha ragione, ma anche lì noi abbiamo provato a interloquire con alcuni rappresentanti delle regioni, ma anche con la segreteria del PD, provando a dire a suo tempo che forse bisogna provare a ragionare sul contratto di settore, esattamente, il contratto della sanità pubblica e della sanità privata, perché la nostra sanità, una sanità privata assai strana. No, ma infatti in questo ragione, secondo me questa sarebbe una di quelle proposte da cui tutti trarrebbero vantaggio, per così dire, e sono d'accordo, perché in realtà poi il settore è a gestione a indirizzo e a controllo pubblico, quindi non ha più molto senso. Detto tutto questo, grazie a Rossana Dettori, mi dispiace per le altre telefonate che non abbiamo passato, continuate su Radio 24, appuntamento come domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milan e poi alle 16:30 domani su Versione Nostra.